get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Salve. A noi l'onore ed il piacere di rompere il ghiaccio, quindi ciao, siamo Caterina e Deborah e facciamo parte del coordinamento lesbiche romane che ha pensato e realizzato questa trasmissione all'interno dello spazio femminista autogestito sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Mi rendo conto che potrebbe risultare forse un po' strano il titolo che abbiamo scelto, però è una frase alla quale molte di noi sono particolarmente legate. L'abbiamo fatta nostra dopo aver visto il film L'assassinio di Sister George, quando la giovane protagonista dice «Non sono mica tutte lesbiche arrabbiate come te!» e Sister George risponde, appunto, «È una calamità di cui mi rendo perfettamente conto». E questo dà il senso di come la pensiamo. Infatti, noi siamo lesbiche, molte donne non lo sono, e questa è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Dunque, questa è una trasmissione autogestita, curata dal coordinamento Lesbiche Romane, che è un gruppo separatista, con sede politica all'interno del centro femminista separatista di via San Francesco di Sales 1A. In altre parole, per chi lo conosce, è l'ex palazzo del Buon Pastore, sì, dove un tempo si rinchiudevano le ragazze strane. Era proprio una casa di correzione per ragazze fuori della norma. Oggi però le ragazze strane hanno deciso di uscire dal Buon Pastore e addirittura esportare le loro stranezze. Infatti nelle trasmissioni che andranno in onda, ricordo il martedì, parleremo noi lesbiche. Eccoci qua, tranquille, non state vivendo un déjà vu, è solo il nostro modo di ricordare una ricorrenza per noi molto significativa. Questa trasmissione segna il secondo anniversario di esperienza radiofonica. Sono appunto 2 anni esatti che il coordinamento Lesbiche Romane fa sentire la propria voce sulle frequenze di Radio Onda Rossa. 2 anni di articoli riguardanti per la maggior parte il punto di vista lesbico sul mondo, episodi che si sono succeduti e da noi riportati e commentati. Certo, se dovessimo fare un bilancio su questa nostra esperienza radiofonica, ci sarebbe di che parlare. Infatti sappiamo che la nostra trasmissione è molto seguita qui a Roma. Molte donne ci ascoltano anche nel Triveneto, grazie alla nostra collaborazione con Radio Sherwood di Padova. Altre donne sanno di noi grazie agli articoli apparsi sulla bollettina del CLI. L'unica cosa con la quale non avevamo fatto i conti fino in fondo è la timidezza lesbica, che non permette a molte donne che ci ascoltano di contattarci, magari come vorrebbero. Non abbiate paura a far sentire la vostra voce. Il mettersi in contatto con noi può essere un piccolissimo passo, è vero, ma sicuramente toglierebbe quel senso di isolamento nel quale molte si trovano a dover fare i conti giornalmente. O anche significa darsi la possibilità di esprimere le proprie idee. Noi aspettiamo e siamo pronti a dialogare con voi di tutto, anche su quello che non condividete di ciò che sentite. Questa è l'occasione giusta per lanciarvi una proposta che potrà facilitare il comunicare. Abbiamo intenzione di leggere anche tutti i contributi che ci perverranno, vostri scritti che possono essere di ogni tipo, dalle poesie alle lettere d'amore, dalle vostre opinioni o quesiti su quanto ascoltate e vedete intorno a voi, iniziative oppure richieste specifiche. Insomma, voi la scelta, noi siamo qui. E voi? Fateci sentire che ci siete. Vi ricordiamo come si può entrare in contatto con noi attraverso il telefono qui in radio allo 06 49 17 50 durante le trasmissioni, oppure presso il centro femminista separatista del Buon Pastore tramite il nostro telefono fax 06 68 64 201. Potete anche scriverci, magari firmando soltanto con il nome, a questo indirizzo: Coordinamento Lesbiche Romane, via San Francesco di Sales 1B, Roma. Per il momento vi lasciamo in compagnia di una canzone che speriamo sia diventata ormai nota a molte, quella della nostra sigla. Si tratta di Sometimes Got a Hold on Me, di Etta James. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that. Something's got a hold on me, yeah. Oh, I must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, I must be love. Let me tell you now, I've got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh, oh. Ciao a tutte, sono Caterina. È veramente emozionante parlare con voi in questa nostra 47esima puntata, che rappresenta così tanto, infatti è quasi una puntata celebrativa. E visto che siamo lesbiche, chiaramente, oggi voglio parlarvi di una lesbica scrittrice che a me piace molto. Non è una politica o una teorica, ma ognuna di noi si manifesta attraverso il canale a lei più congeniale, non per questo meno importante o significativo. Sto parlando di Patricia Cornwell, che scrive romanzi gialli, o meglio, thriller. I suoi libri non parlano di lesbismo, non raccontano storie tra due lesbiche, non hanno la presunzione di produrre pensiero, ma hanno di buono che tutti i personaggi degni di nota sono comunque donne che ricoprono posti di prestigio, che so, responsabile della sicurezza, capo del settore informatico di una branca dell'FBI, o capo di qualunque altro settore che via via viene nominato. Anche la protagonista, Kay Scarpetta, è capo dell'ufficio di medicina legale di Richmond. Un'altra figura molto importante è Lucy, la nipote di Kay. È importante perché è lesbica, eppure essendo lesbica non è una disadattata, non è una con problemi irrisolti, non è stata violentata da piccola, non tenta di ammazzare la madre, non occulta cadaveri e non è certo una squilibrata. Non è descritta, insomma, come la maggior parte di registi cinematografici o di copioni teatrali o scrittori e scrittrici dipingono la lesbica tipo. È una ragazza giovane, molto in gamba, con un ottimo rapporto con la zia Kay e che vive storie con donne altrettanto normali, ad eccezione di Carrie, che però è bisessuale e psicopatica. Patricia Cornwell ha la capacità di scrivere in modo tale da farti sentire talmente veri tutte e tutte le persone che creano il contesto, che alla fine, dopo aver letto i suoi romanzi, diventano personaggi familiari: Kay Scarpetta, la nipote Lucy, il capitano Marino e Benton Wesley. Patricia Cornwell è americana e, prima di diventare analista informatica dell'ufficio di medicina legale della Virginia, è stata cronista di Cronaca Nera, da cui forse si capisce la sua dimestichezza con certe tematiche. Il suo primo libro, Post Mortem, è uscito nel 1990 ed ha vinto l'Edgar Award americano. Inoltre ha vinto anche il premio per l'opera prima della British Crime Writer Association. Dopo questo primo romanzo sono seguiti Oggetti di reato del 92, poi Quel che rimane, Insolito e crudele, La fabbrica dei corpi, Il cimitero dei senza nome, Causa di morte, Morte innaturale e Punto di origine, che io sto leggendo adesso. Beh, sono libri veramente gradevoli che io consiglio spassionatamente a tutte. Allora ciao e buona lettura! Allora, se da una parte la lettura della Cornwell può essere un'esperienza piacevole e interessante, bisogna però fare attenzione. Non tutte le produzioni sono esaltanti e nel mucchio occorre avere l'accortezza di scegliere e, naturalmente, di scegliere bene. Perciò, quando farete una puntatina in libreria e sfogliando testi qua e là vi ritroverete per le mani benzina, se siete delle fumatrici fate attenzione a non accendere i cerini, l'effetto potrebbe essere a dir poco bruciante. Benzina, di Elena Stancanelli, edito da Einaudi, è un breve romanzo del genere On the Road e racconta l'amore tra due giovani donne e del loro tentativo, nell'arco di un giorno e di una notte, di occultare il cadavere della madre di una delle due. Lenny e Stella la uccidono per vivere il loro sogno d'amore, un amore a tutto tondo, ma non per questo fuori dagli schemi. Perché d'amore totalizzante si tratta, amore senza confini, dove la personalità dell'una si fonda in quella dell'altra, in una sorta di balletto stucchevole della serie «Io ti basto, tu mi basti, il mondo è brutto, ma noi siamo autosufficienti». Due disadattate, e come potrebbero essere due lesbiche, con tanti irrisolti affettivi di tipo addirittura ancestrale. Di questo genere ne è piena la letteratura e la cinematografia del XX secolo. Che dire, impegniamoci a produrre di meglio nel prossimo millennio. The power. Avete ascoltato People Have the Power di Patti Smith. E proprio a proposito di musica americana, quest'anno è giunto alla sua 24esima edizione il Michigan Women's Music Festival. Sin dal 1991 le organizzatrici del festival avevano preso una netta posizione sulla questione dell'accesso, dichiarandolo evento per donne nate donne e quindi rifiutandolo a transessuali e transgender. Come si legge nella pubblicità al festival, noi non facciamo né vogliamo fare indagini sul genere di nessuna. Il festival è un evento organizzato da donne, per le donne e sulle donne. Quindi un festival per donne nate donne, nel senso di persone che sono nate e hanno vissuto tutta la loro vita in un corpo femminile. L'anno successivo a un trans fu negato l'ingresso e a partire dal 1994 ogni anno vari attivisti e attiviste hanno organizzato un campo trans attendato nello spazio davanti all'ingresso del festival, cercando sostegno alla loro causa. L'organizzazione tenne duro sulla caratteristica donne nate donne e sulla fiducia nell'autoregolamentazione. Noi chiediamo che la comunità trans sostenga e rispetti le nostre intenzioni. Operiamo sulla fiducia e ci aspettiamo che la gente faccia del suo meglio. Non ci piace inquisire la gente per impedirle di fare del suo peggio. Al campo trans di quest'anno, oltre alle agli attiviste e attivisti di Transsexual Menace e Transgender Serve, sono arrivate le Chicago Lesbian Avengers per sostenere le richieste di ingresso dei trans e dare man forte nelle dispute con le separatiste. Noi che siamo separatiste non possiamo fare altro che essere d'accordo con le decisioni prese dalle organizzatrici e ci domandiamo per quale meccanismo le lesbiche come le Chicago Avengers ritengano di dover sostenere le posizioni, ancora una volta di dominio, di persone che pur avendo scelto di modificare il proprio stato di genere hanno assimilato e continuano ad esportare una cultura maschile prevaricatrice, come ben dimostrano i fatti accaduti al suddetto festival. Ci domandiamo come mai sia tanto difficile da accettare per le stesse lesbiche l'ipotesi di una relazione selettiva fra sole donne, senza ingerenze esterne che non rimandino comunque alle donne alcun tipo di autorevolezza. Questo atteggiamento fa sì che molte donne decidano di non partecipare più ad iniziative di questo genere, creando in tale modo un vuoto nella rete del confronto e dello scambio. Non escludiamo a priori che ognuna autonomamente possa scegliere i propri referenti politici e non, ma non intendiamo accettare ed avallare in alcun modo le richieste di chi intende farlo con la forza in luoghi separatisti deputati ad altro. E a proposito di separatismo, vi segnaliamo una iniziativa delle Desiderande. Vacanza di Capodanno in Puglia, 30 dicembre 1999, 2 gennaio 2000, ad Ostuni, a Villanova, Brindisi. Un cenone e festa di Capodanno. La masseria può ospitare 100 donne in stanze da 5-6 letti con bagno e riscaldamento autonomo. Non è necessario portare lenzuola, coperte e asciugamani. Per informazioni e prenotazioni, entro il 15 dicembre, telefonare allo 0368 3777 784 presso le Desiderande oppure scrivere a desiderande@hotmail.com. Plan to make you healthy again. gonna bother you. I wouldn't tell you no lies, so let this ruling apply. Girls, so listen to what you better do. And then he told me, if you dig it, don't do it. And if you like it, better leave it alone. And if it's too much fun, that ought to clue you, huh? That you're probably doing something that's wrong. Erano le Sapphire con Don't Do It. Intanto vi ricordiamo che siete sempre all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87-900 di Radio Onda Rossa. Per quelle di voi che sono appassionate di informatica, vi ricordiamo la nostra email clrbp@hotmail.com. Intanto vi vogliamo parlare di un film da poco uscito nelle sale cinematografiche, un film di Salvatore Maira, intitolato Amor nello specchio, storia di una compagnia teatrale del Seicento. Dai trailers risulta evidente che il fulcro della storia è la passione, per così dire amorosa, tra le due protagoniste. Inutile dire che molte di noi hanno pensato di andare a vederlo, e non è escluso che qualcuno lo faccia. Ma come dire, il guaio di girare con le orecchie è che ci si espone a sentire certe cose. A che ci riferiamo? Ma naturalmente alle interviste rilasciate dalle due attrici in questione, Anna Galliena e Simona Cavallari. Non vogliamo soffermarci sulla storia, che peraltro non conosciamo appieno, ma troviamo sicuramente quantomeno singolari le dichiarazioni rilasciate alla televisione dalle protagoniste. Tanto per cominciare, la Cavallari, intervistata dalla RAI, ha creduto bene di avallare quanto richiesto dalla giornalista del GT Ragazzi, e cioè di prestare molta attenzione a quanto si diceva, considerata la scabrosità dell'argomento e la fascia di ascolto protetta. D'altro canto, si sa, è meglio occuparsi dei giovani presentando loro cartoni animati giapponesi, trasmissioni che sono autentici capolavori di imbecillità, partite di calcio e relativi processi, massacri, prevaricazioni e altre similari e violente situazioni che quotidianamente vengono proposte da cinema e televisione, piuttosto che presentare un qualsiasi altro prodotto sulla e sulle diversità. Del resto, i giovani vanno protetti da certe perversioni, e lesbismo ed omosessualità, che altro potrebbero mai essere se non argomenti da trattare con facile ilarità o morbosa attenzione. Di altro tenore è invece l'intervista della Galliena, che non ha perso l'occasione di far trapelare il suo imbarazzo rispetto alle scene di sesso che si è vista costretta a girare con un'altra donna. Al di là del fatto che un'attrice è un'attrice, e quindi dovrebbe essere scevra da problemi di questo tipo durante il suo lavoro, ci lascia perplesse la modalità con la quale le due comari hanno girato le fatidiche scene, e cioè sole sul set, con cineprese e regista. Ma evidentemente, nonostante l'assenza di pubblico, Le due erano piuttosto in imbarazzo, non sapendo letteralmente dove mettere le mani. Per fortuna il regista, con un colpo di mano, ha risolto la situazione. Buttandosi sulla galiena, le ha fatto finalmente vedere, davvero esperto, come due lesbiche fanno l'amore. Il commento della sprovveduta fanciulla è stato: meno male, finalmente una cosa normale. Per la musica lesbica indipendente abbiamo scelto Laughing So Hard di Srazi. Maybe it's the city, cold and gray, seems to squeeze my life away. Hey. Screaming at the cold. Oggi, nella nostra trasmissione È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, inizia una nuova rubrica e, come a nostra consuetudine, vi facciamo ascoltare la sigla, anche se verrà troncata un po' di netto. Come avrete potuto ascoltare, è una cosa demenziale, ma questo spazio ci servirà per dare tante risposte ad altrettante domande che molte di noi e di voi forse non hanno mai avuto il coraggio o la forza di fare. Ci siamo rese conto che era arrivato per noi il momento di fare chiarezza. Ci avverremo dell'aiuto di un'esperta? Ebbene sì. Anche noi a volte abbiamo bisogno delle esperte che ci possono aiutare a fare luce su alcuni punti purtroppo ancora oscuri. Ed è con immenso piacere che vi presento la dottoressa Davvert Chemin. Buonasera, dottoressa. Buonasera, buonasera a voi. Allora, la dottoressa Chemin, laureata a pieni voti all'Università della Penitenza, mi sembra, sì, vero? Sì, Caruccia, sì. Si è subito messa in luce grazie alle sue ricerche e ai suoi studi sulla eterosessologia, che ormai svolge da quanti anni, dottoressa Chemin? Ma guardi, bellina, sono talmente tanti anni che non ricordo più quando ho iniziato. La materia è così, come dire, direi variegata, che ogni studio, ogni indagine ed ogni ricerca diventano tanto interessanti che il tempo passa e non me ne accorgo. Sì, bene, sì. Eravamo certe che la nostra scelta nei suoi confronti si sarebbe rivelata quella giusta. A questo punto direi, se lei è d'accordo, di passare subito alla prima domanda. Figuriamoci, sono qui per questo, dica Caruccia, lei è tanto simpatica, bellina proprio, sì. Sì, grazie. Un po' lesbica, dottoressa. Sì, ma questo, sì, insomma. Appena appena. Sì. Le confesso che sono un po' imbarazzata, sì. Ma bando alle ciance. Sì. Allora, dottoressa Chemin, eterosessuali si nasce o si diventa? Ma guardi, le dico subito che non è assolutamente facile, vero, rispondere a questa domanda, vero? Non è facile perché al riguardo esistono svariate teorie che si rivolgono sostanzialmente su due fronti. E sì, il primo riguarda sì l'aspetto genetico e l'altro volge la sua attenzione all'aspetto dei condizionamenti esterni. Sì. Mi scusi un attimo, dottoressa, sì. Chemin, credo di non aver capito bene. Scusi lei, bellina, cercherò di essere più chiara. Come è risaputo, ogni essere umano ha un suo bagaglio genetico, vero? Sto vagliando tutte le ipotesi per cercare di scoprire se è vero che nelle persone, vero, che manifestano tendenze eterosessuali, sia presente qualche anomalia nel bagaglio genetico. Cerco di restringere il campo d'azione soprattutto alla conformazione chimica degli ormoni. Abbia pazienza, sì, dottoressa Chemin. Sì, mi dica se ho capito bene. Sì. Quando lei parla di anomalia, sì, del Caruccia, bagaglio genetico, vuole dire che un eterosessuale ha, sì, come dire, sì, qualcosa che non va rispetto alla normalità? In un certo senso è così, bellina, però attenzione. Diciamo che originariamente ogni individuo è uguale all'altro. Il problema, vero, è la permanente. La permanente? Sì, sì, ha capito benissimo. La permanente. Colpì solo le mesh che la donna incinta fa. Oddio, aspetti un attimo, sì, credo Caruccia, di sì, non aver capito, sì, cosa c'entrano le cose fatte dalla parrucchiera e l'eterosessualità. Sì, effettivamente può risultare un po' strano, però mi creda, è proprio così. Le mie ricerche, durate anni di sondaggi, analisi, vero, mi hanno dato dei risultati sconcertanti. Davvero? Sì, sì. Gli studi da me effettuati sulla composizione chimica degli ormoni degli eterosessuali mi hanno fatto scoprire che una larga componente delle tinture finisce nella struttura genetica dell'individuo causando quelle strane anomalie di cui parlavamo, ma vero? Dai, sì, insomma, sì, mi scusi, sì. Ma stento a credere una cosa del genere, no, via, no, è così, così strano, dottoressa, vero, ma Caruccia? Mi scusi, le sue ricerche e i suoi sondaggi a chi erano rivolti? Mi dispiace, ma su questo proprio non posso rispondere perché il mio codice deontologico mi proibisce di rendere pubbliche le fonti, vero, Caruccia? Ma andiamo avanti, dottoressa Gemin, va bene, andiamo avanti, è meglio. Volevo dire, tutto questo riguarda l'aspetto genetico, ma allora ci può spiegare meglio cosa sì, sono i sì. condizionamenti sì. esterni? Ma sciocchina lei. I condizionamenti esterni, lo dice la parola stessa, no? Sono i condizionamenti che vengono dall'esterno, chiaro, no? Vero, Caruccia, bellina? Sì, lei è stata chiarissima. Grazie, grazie. Io direi che per oggi... Anni di studi, vero? Sì, mi rendo conto, io... Penso proprio che per oggi può bastare così. Sì, Caruccia, sì. Sappiamo che lei ha molti impegni sì, e non vogliamo rubarle altro tempo, quindi ringraziamo la dottoressa Davvero Chemin. Come Chemin de Fer, sì. Sì, di essere intervenuta e le diamo appuntamento ad un'altra puntata e magari con un'altra domanda. Grazie ancora, dottoressa. Grazie, dottoressa. Caruccia, c'ha questo golfino che ci sta proprio bene. Belina, sì, Belina, sì, arrivederci. Buonasera. Beh, credo abbiate capito che si trattava di una intervista fantascientifica, però noi continueremo lo stesso a mandare in onda questa rubrica della dottoressa Davvero Chemin, se non altro nella speranza che il messaggio arrivi a chi continua da anni ad elaborare, e questa volta per davvero, sgangherate teorie sulle cause e sul manifestarsi dell'omosessualità. In sostanza, si dicono tante stronzate, permetteteci di farlo pure a noi. È davvero ridicolo, a volte, sentire quanto la mente di pseudo-ricercatori riesce ad elaborare sulla nostra pelle. E allora, a tutti gli eterosessuali in ascolto, diciamo di provare per un po' ad invertire la faccenda, cercando di capire cosa significa sentirsi studiate come animali da laboratorio, sezionate in nome della scienza, analizzate per sempre nuove teorie psicoanalitiche. E tutto per arrivare alla conclusione che, per fortuna, io sono normale. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Ciao a tutte. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.